La Cicogna Nera. Sono le 21.04, ben trovati ai suoni dal mondo della Cicogna Nera. Siamo stati per un paio di settimane in Pernambuco, nel nord-est brasiliano, e ci siamo entrati attraverso un'altra colonia portoghese, l'Angola. Ora ce ne torniamo proprio lì. A fine sagra canta, canta tutto che quisere, tutto che si passa, bairro TV una serie. Dengue já saluca, estão a secundária. Carrango nas berritas, a uiva frementalhe. Sunga com cuidado, la paz, essa terra tudo dá. Filho dessa banda vai ter que perdurar. Que ambotepe. Afina essa garganta, certa aquele passo. Mwembu mwangola, é bom se conservar. Quando se é de Angola, nossa forma de existir. Esteja lá onde estiver, vocês devem se encontrar. Afina essa garganta, canta tudo o que quiser, tudo o que se passa, bairro teve mais ser. Jindengue já saluca, estão a se bondalhe, carrango nas berridas, a uiva frementalhe. Cuidado, la paz, essa terra tudo dá. Filho dessa banda vai ter que perdurar. Que a botepe. A fineza garganta, certa aquele passo. Mwimbu mangola, é bom se conservar. De Angola, nossa forma de existir. O grau que você tem, você deve prosperar. .06 49 17 50 è il numero della diretta, oppure la cicogna nera @ondarossa.info se volete mandarci una mail. Dunque, queste, come ogni giovedì, sono le sonorità popolari contemporanee. Facciamo un'oretta di fascia settimanale in cui tentiamo di ascoltare, di approfondire dove possibile un po' di musiche, un po' di nuove musiche piuttosto del mondo che almeno partano da una matrice popolare. E questo che avete appena ascoltato e che in realtà avete già sentito, per chi ci segue, un mesetto fa, è quel personaggio che si chiama Bonga e che arriva dall'Angola ed è stato così un dissidente, un provocatore, con un album fatto in esilio, quell'Angola 72 che andava contro la colonizzazione. E questo invece si chiama Ora Kota e ve l'abbiamo passato, come vi ho già anticipato, circa un mesetto fa, ma ad ogni ascolto è talmente bello, è talmente eccezionale che veramente merita un altro ascolto, più che altro per la grande quantità. La quasi totalità delle tracce sono veramente delle canzoni molto molto avanti, ecco, molto belle, quasi eccezionali, e dunque mi verrebbe quasi da dire che è uno dei migliori progetti sicuramente dello scorso anno. Ora Kota, che rappresenta insomma un po' la società, o quantomeno Bonga, come tenta in qualche modo di avvicinarsi alla società, soprattutto quella degli anziani, ecco, è un po' una storia verso, è un po' un progetto di rispetto verso le storie, verso i valori che trasmettono le generazioni più anziane. E quello che avete ascoltato, se non mi ricordo male, forse è la canzone di chiusura, si chiama Zona Bue, e sicuramente la canzone più così delicata. Ora vi faccio ascoltare invece un'altra canzone che è invece tra le più attive, si chiama Carripana, e dovrebbe essere una semba, questa semba che è un ritmo tipico angolano, un ritmo molto molto così spinto, molto ballabile, e in questa canzone lui dovrebbe così descrivere la felicità della gente che abita e che circonda i sobborghi di Luanda. A cidade de Luanda tem maneira, uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela, quem julgou sem lá viver se enganou. Carripana o vigila como seque, transportando a fina flor da confusão. A cidade está feliz, estou contente, misturando toda a gente mesmo chão. Arrebita da macemba cada um, seja qual for a patente cidadão. Caso cuta cabitula culungunzum, tem um semba que lá paga no salão. É um povo fervoroso em conservar tradição da nossa coisa nacional. O Luanda eu vou cantar, eu vou dançar, por saber que essas mondonas vão durar. Da voximinha, uaiquia, os quitutes da vizinha estão aqui. Ou de casa, vai pra rua, vai lá ver. É Luanda que tem tudo pra espender. Agora! Cidral invejado, olho amaiado, 14 pare, Carripana do meu ao 1 de maio. Cidade de Luanda tem maneira, uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela, quem julgou sem lá viver se enganou. Carripana o abixila com a museque, transportando a fina flor da confusão. A cidade está feliz, estou contente, misturando toda a gente mesmo chão. Ai! Arrebita da macemba cada um, seja qual for a patente cidadão. Caso curta cabitula pulungunzum, tenho sempre calipanga no salão. Ai, ué, povo fervoroso e conservado, tradição da nossa coisa nacional. Oh Luanda, eu vou cantar, eu vou dançar, por saber que essas mondonas vão durar. O pregão da voximinha, uaiquia, os quitutes da vizinha estão aqui. Ou de casa, vai pra rua, vai na velha. É Luanda que tem tudo pra espender. Falou. Sì, direi proprio che si respira la felicità qui delle periferie e forse anche del centro di Luanda, capitale dell'Angola, sua principale città che circa ha una popolazione che si avvicina a quella di Roma o su per giù è uguale, sicuramente leggo 4 milioni e quasi 800 mila abitanti, città che venne fondata nel 1575 da un portoghese, Paulo Dias Novais, e che gli diede il nome di São Paulo de Luanda. Questo dunque era Bonga, ancora con l'ultimo progetto Horakota, un album veramente da ascoltare più e più volte, e ora invece ci spostiamo in Senegal. Rimarremo per questa puntata, per questo giovedì, praticamente in Africa occidentale, e andiamo a presentarvi un nuovo cantautore, un nuovo artista, un nuovo musicista, nuovo solamente perché, nel senso che esordisce con questo progetto solista, si chiama Amadou Diagne, pronuncia permettendo, e appunto, e come vi ho detto, arriva dal Senegal, è un griot, un cantastorie che però ha un passato da musicista molto molto lungo, è un suonatore di percussioni che ha così fatto parte per molti anni di una banda nazionale del Senegal. Questo album è abbastanza così caratteristico delle sonorità dell'Africa occidentale, una chitarra acustica, un blues insomma che serpeggia l'intero progetto, e un po' di tradizionali, di percussioni tradizionali, e qualche arpeggio così, qualche sapore di cora ogni tanto. Andiamoci ad ascoltare Diamanu. Sama bay Se fighe plus se maya hai Se maya ye terere Joy na na De gai se ma bai Se fighe plus se maya hai Se maya ye terere Joy na Introducing Amadou Diagne per la World Music Network. Questo insomma è il suo debutto, anche se non è proprio insomma un musicista novello. E andiamo ad ascoltare sempre dal Senegal un altro debutto solista, anche questo però come Amadou, anzi questo è proprio uno dei grandi veterani della scena musicale senegalese. Si chiama Ablaye, questo sicuramente è sbagliato come pronuncia, comunque Ndiaye Tiosane, ed è proprio uno dei insomma dei grandi musicisti rispettati di questo paese del Senegal, che ha suonato negli anni 60 in diverse parti dell'Africa occidentale, ha fatto parte anche dell'orchestra Baobab e impressionò nel 1966 alle arti negrese del Festival di Dakar, impressionò proprio quel grande jazzista che si chiamava Duke Ellington. Questo è il suo album solista che porta il suo stesso nome, se andiamo a controllare. Sì, dovrebbe portare il suo stesso nome l'album, insomma, di Ndiaye Tiosane. E andiamo ad ascoltarci la prima canzone che si chiama Tierre Lamboul. Tierre Lamboul, che non so se ha qualche insomma qualche sapore, qualche referenza verso il linguaggio dei Wolof. Wolof che, come sapete, forse alcuni ancora non lo sanno, sono il principale gruppo etnico, no, del Senegal, costituiscono circa la metà della popolazione. E in questo album c'è da dire che insomma, così come era per l'orchestra Baobab, si respira un po' un sapore a metà tra i ritmi tradizionali Wolof e dei suoni afro-cubani. Wolof che deriva da Lof, Lof che è proprio la regione, la provenienza geografica di questa etnia Wolof, oppure Wolof, e proprio significa proprio gente di Lof. Amna yaita ma yayo ma Peter Lambul, dunque ci siamo ascoltati da questo debutto solista che si porta semplicemente il titolo del suo nome, Ablaye Ndiaye Tiosan. E la canzone che ci siamo ascoltati era questa, e lui insomma è ritornato alla musica dopo tanti anni grazie al produttore africano Ibrahim Silla. E dopo aver goduto così di una discreta, forse anche non discreta, ma una bella carriera, un successo anche come pittore, ed è tornato alla musica in questo progetto, chiamando a sé anche musicisti insomma a lui vicini, come il chitarrista congolese Papa Noel o Noel, insieme al sassofonista Tierno Kouaté, che faceva o fa parte, non lo so, dell'orchestra Baobab, ancora altre 5 voci, 5 cantanti, in cui ci sono 3 membri attuali e altri 2 sempre ex, sempre dell'orchestra Baobab. E ci spostiamo dai Wolof, dall'etnia Wolof, che rappresenta la principale etnia del Senegal, invece ha la principale etnia del Mali, che è quella dei Bambara. E quindi un'altra lingua molto importante, questa lingua Bambara, che è una delle lingue sicuramente più parlate dell'Africa occidentale, e che può essere chiamata anche, nota anche come il nome di Bamanankan. E ci spostiamo lì per andare a presentare l'ultimo disco, che si chiama Folila o Folila, che proprio in questa lingua significa semplicemente musica, ed è praticamente a cura di una coppia molto diciamo molto famosa da quelle parti, e anche molto famosa qui in Occidente. È l'ultimo album di Amadou e Mariam. Papa chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Mama chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Tonton chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Tanti chéri yo. Thank you. Accadite, accadituro. Chéri, la canzone che chiude questo nuovo progetto Folly La di Amadou e Mariam, ed è una delle pochissime, se non sbaglio, canzoni che non prevede un'esplicita collaborazione con almeno altri artisti famosi. Andiamoci ad ascoltare un'altra track da questo progetto. Lui è l'ex cantante dei Noir, anzi no, è proprio lui il cantante dei Noir Désir. Clarinetto basso, se il mio orecchio non mi tradisce, per questo 9-9 Mogo che, come avete ascoltato, magari chi era appassionato dei Noir Désir avrà riconosciuto la sua voce, quella di Bertrand Cantat, che prima avevo detto l'ex cantante, insomma non sapevo neanche io quello che volevo dire, ma è proprio lui, insomma, che li ha formati, questo gruppo che uscì con una grande canzone, divenne poi molto famosi. Poi, se non mi ricordo male, lui ebbe un po' una storia di merda, non mi ricordo se era... sì, probabilmente era proprio lui il cantante di Noir Désir, no? Quello che aveva quasi ammazzato di botte la moglie o qualcosa del genere. Comunque, questa era invece una canzone, appunto, di Amadou e Mariam in collaborazione con Bertrand Cantat, ed è praticamente un po' il filo conduttore del disco, che vede dei continui, delle continue così collaborazioni con altri artisti famosi, il rapper Santi Gold, un cantante che non conosco dei TV on the radio ancora, chi abbiamo, andiamo a leggere, Abbiamo Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeah, che non so chi siano, comunque a quanto pare dicono che sono abbastanza famosi, forse lo saranno soprattutto nel mondo dell'indie, qui penso che viriamo un po' verso questo mondo. E in effetti questo disco, che così voleva essere inizialmente diviso in due parti, una voleva essere così più attuale, molto crossover, e doveva essere registrata completamente a New York, e l'altra invece più roots e africana, registrata proprio in quel di Bamako, la capitale del Mali. E invece poi alla fine hanno deciso che era meglio fare un ibrido di queste due cose, e così è uscito questo folilà, questa musica del che è il settimo progetto della coppia non vedente sicuramente più famosa della musica, almeno delle musiche del mondo. E lo ascoltavo oggi per la prima volta questo folilà, insomma. Sinceramente non mi piace molto questo approccio, che va un po' troppo verso l'indie pop. Comunque le canzoni che vi ho passato sono sicuramente tra le due migliori. E ora rimaniamo sempre in Mali, però ci spostiamo così da Bamako, diciamo dalla zona sud, dal Mali Bambara, a quello del nord, che purtroppo, come molti già sanno, sta vivendo un periodo storico molto molto difficile, con l'occupazione da parte dei Tuareg e anche del fondamentalismo islamico di tutta la zona nord, che ha provocato una reale spaccatura del Mali proprio pochissimo tempo fa. E lui, questo cantante che andiamo ora ad ascoltare, stava proprio così finendo le sue registrazioni a Gouaz, che è questa città del nord del Mali, proprio mentre scoppiava la guerra, praticamente la rivolta. E si chiama Sidi Touré. Abbiamo passato poco tempo fa con un album del 2009-2010, o forse anche 2011, sì, non mi ricordo bene. Comunque molto molto prolifico, ha fatto questo album di debutto che si chiamava Sahel Folk, registrandolo a casa di sua sorella, e ora esce pochissimo tempo fa con questo Koima, da cui andiamo subito ad ascoltarci una canzone. Questa è Akakunsa Ashak, è scritta in francese, quindi la canterei in francese, dovrebbe significare a ciascuno la sua chance. Albarka si kalir koise, walbarka danga diya se. Da kanir haira gay, da ka ir haira gay mo nir bangi. Hey ay wai ma, hey agar ma. Hey ay wai ma, hey agar ma. Undin da lo mur no ma sendi, kahamba ninga no ma sendi. Ganino asiniha maizo tini me irkwenda ganino asinino ni morose irkwenda ganino asinino ni gabose irkwenda ganino asinino ni sahase change pas on destin a chaque sa chance change pas. Thank you. ni handaranda fatika kini borsi ni kazu mandini ni handaranda fatika di borsi ni kagu irgeze borsi doni durama borsi doni watu manto borsi doni hanoma Sono le 21.45, andiamoci ad ascoltare un'altra canzone di questo bel disco, il secondo di Sidi Touré, come vi ho già detto, registrato a Gao nel nord del Mali, caduta in mano ai ribelli, che era l'antica capitale dell'impero Songhai. Chico, mami, mami, mami. sei come him. Boy, boy, boy, boy, boy. Molei come him. Boy, boy, boy, boy, boy. Haraway come him. Voi ti love you, che significa bellissime donne. Il titolo di questa canzone ne abbiamo ascoltate due dall'ultimo album di Sidi Touré, due tra le più ritmate, tra le più attive di questo progetto che si chiama Koima o Koima e che significa letteralmente andare a sentire nella lingua Shongai, la lingua madre di Touré. Ma nello stesso momento Koima porta anche un secondo significato, quello che ci dice Touré è di una immensa, di una grande duna di sabbia che bagna i suoi piedi nelle acque del Niger e con la sua testa tocca il cielo. E secondo le norme del folklore locale, che insomma sappiamo benissimo che il Mali è una zona che sta virando verso l'Islam anche integralista, però comunque nel folklore locale rimangono le tradizioni preislamiche, rimangono molto forti, insomma permeano la vita locale ancora oggi. Comunque Koima è questo luogo, questa duna dove ci dice si raccolgono, è un luogo dove trovano appuntamento gli stregoni più potenti del mondo, dove si riuniscono tutti questi grandi spiriti. Speriamo che si riuniscano di nuovo, perché in Mali sta succedendo veramente una catastrofe. Vi abbiamo parlato della ribellione Tuareg di Goa, la città di Touré dove è stato registrato, che è caduta in mano ai ribelli. Così è successo per Kidal e ora, proprio pochissimo tempo fa, anche per Timbuktu, che è una città diciamo così santa, mitica, e è la storica capitale dei Tuareg, che è stata dichiarata patrimonio mondiale dall'UNESCO. Queste tre insomma città sono in mano all'MNLA, che è il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad, che è la regione sahariana del Mali, e di fatto hanno provocato proprio una spaccatura in due del Mali, una zona nord, quella sahariana, e quella del sud. Il problema è che nel movimento Tuareg, che insomma ha tutti i suoi diritti, ci sono cellule fondamentaliste, molto fondamentaliste di Al-Qaeda, insomma di Al-Qaeda soprattutto per il Maghreb islamico, e così si va veramente verso, insomma si sta rischiando di andare verso una brutta storia. Contemporaneamente tra pochi giorni ci dovevano essere le nuove elezioni a Bamako nel Mali, però il 22 marzo scorso c'è stato un golpe che ha costretto insomma a fuggire Amadou Toumani Touré, che era è ancora il presidente del Mali. C'è stato questo golpe proprio perché insomma l'esercito riteneva che il presidente non avesse un po' una mano abbastanza debole su quello che stava accadendo nel nord. Beh, speriamo proprio che insomma vada a buon fine, perché una delle regioni, no, che è stata sempre conosciuta come una delle culle musicali della musica africana, e l'abbiamo sempre, no, conosciuta per i suoi grandi artisti, per i suoi grandi festival, insomma la sua matrice che ha dato veramente un contributo musicale mondiale. Basti solo pensare, no, che dal Mali arriva il seme che poi darà vita al blues nordamericano. E dunque speriamo bene. Andiamo avanti, mancano 5 minuti, forse ce la facciamo ad ascoltare due canzoni, andiamo veloci. Questo che vi passo ora è un progetto uscito anche questo poco fa, si chiamano gli Zeta Zita o Zita Swoon Group, e tentano un po' come l'ultimo progetto di Amadou e Mariam un crossover tra la musica occidentale e gli stili africani. Arrivano dal Belgio, hanno pubblicato per la Crammed questo Wait For Me, da cui ci andiamo ad ascoltare la canzone di apertura, Sababu. Thank you. può essere il suono della Tunisia post-rivoluzionaria, quello che stiamo ascoltando sotto? Forse potrà esserlo. Comunque ne riparliamo giovedì prossimo, perché la cicogna nera finisce qua. Tra poco le sonorità di Noctibus Panis prenderanno così le frequenze, le onde qui dagli studi di San Lorenzo, e noi ci diamo appuntamento così la prossima settimana, approfondendo questa nuova uscita. Una cantante giovane tunisina, si chiama Hemel Matlouti, pronuncia naturalmente permettendo, è quella che ascoltate nell'album, è Kelmti Horra, il titolo di questo progetto, che significa La mia parola è libertà. Ciao agliù.